perché non lo fai? Quando vuoi, quando puoi, quando senti la tua voglia crescere di più, quando senti la voce, quando senti il rumore, non comandi tu. E lo senti chiamare, arriva quasi a gridare, quando sembra che ti passa e non ti passa mai. Cosa vuoi che ti dica? Non c'è più via d'uscita. E sconti tutto e inizia ad imprecare. Non c'è niente che io possa fare. Prova a non pensare, ma me lo ritrovo sempre qua. Sarà un nemico per la pelle in più. Non passa il tempo e guardi l'ora, e sembra ad essere come a scuola. Non riesci a divagare, non lo puoi più trascurare. E lo sai che poi cederai, avrà vinto lui. Il vizio che non se ne va, oh no. Non riesci a dirgli grazie, no. Non riesci più a capire cosa è giusto e cosa no. Se nella tua testa rimarrà vizio che non si arrende, non ci sta. A farsi trascurare in fretta, no, lui non ci sta. Se vuoi ce la fai, quando vuoi, quando puoi, quando senti il tuo rancore crescere di più. Non ci sono più scuse, non devi ascoltare chi ci marcia su. C'è chi ti vende il suo bene senza farsi pagare. Non far finta di sentire senza mai capire. Come un gioco di vite con le carte infinite, resti dentro e inizi a ringraziare tutti quelli con cui puoi parlare. Dire che stai bene fa, però non sempre ti servirà. Sarà uno stimolo per darti più. Più passa il tempo e più sei solo. Adesso anche lo stronzo è buono. Non riesci a stare bene, ti continui a trascurare. E lo sai che se tu cederai, avrà vinto lui. Il vizio che non se ne va, oh no. Non riesci a dirgli grazie, no. Non riesci più a capire cosa è giusto e cosa no. Se nella tua testa rimarrà vizio che non si arrende, non ci sta. A farsi trascurare in fretta, no, lui non ci sta. Il vizio che non se ne va, oh no. Non riesci a dirgli grazie, no. Non riesci più a capire cosa è giusto e cosa no.